Radio Beograd, prvi program. Radio Zagreb, Sarajevo, Titograd i Novi Sad. Veselo veče. Za službena putovanja koristite prednosti prevoza avionima JATA. Novo imenovanog, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sovjetskog saveza u Jugoslaviji. Sve mladiće volim, kako da odolim. Zeleno tražim. Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. Utakmica između Partizana i Hajduka. Raz, dva, tri, majčeki! Blagane zore, Balkan rock, bude verista, Sumaj radio, fabrična jutra, muzika, pop kultura e curiosità dal mondo jugoslavo. Rock, buonasera a tutti. Oggi è venerdì, non mi ricordo che numero di ottobre è. Attenzione, è il 10 di ottobre. Il 10 di ottobre e Balkan Rock va in onda di venerdì da questa settimana per un'ora e mezza, perché dopo le numerose preghiere degli ascoltatori abbiamo deciso di allietarvi per ben 30 minuti in più. Siete contenti? Va bene, dai, mettiamola così, insomma, che erano richieste pressanti. Ok, va bene. Sì, un'ora e mezza di venerdì, ficcatevelo bene nella testa, ad ora in poi, almeno sicuramente per un po' di mesi, andremo in onda ogni venerdì alle 9, insomma, se non avete soldi per uscire come noi, attaccatevi al PC e ascoltate Balkan Rock venerdì sera. Esatto, oppure uscite più tardi, perché comunque i veri giovani diciamo che escono dopo le 22:30. Esattamente, per cui esattamente. Ascoltate un buon inizio di weekend, inizia con Balkan Rock. Questo è risaputo in tutta la Balcania Saudita e in tutta la provincia torinese del Piemonte. Per di più stasera parliamo di caffane, cioè dobbiamo innanzitutto spiegare, insomma, dopo il primo brano, che cos'è una caffana, ovvero una sorta di osteria in stile balcanico. Quindi se volete potete anche iniziare a sbevazzare un po', per mettervi un po' nel mood, esattamente. Infatti, il tema di questa sera, come diceva giustamente Dusko, è la caffana, ma anche il caffè da cui deriva, no? Nome da cui deriva il termine della caffana, poi andremo a spiegare perché. Ma innanzitutto vogliamo salutare i nostri ascoltatori, un grande abbraccio soprattutto a Dragan e a Nada che ci ascoltano da Herceg Novi, dalla bellissima Herceg Novi, che non vediamo l'ora di vedere, di abbracciare sia la città che Dragan e Nada, e andiamo a dedicare loro la prossima canzone. Cosa ne dici? Cose che gli stai dedicando, che Dragan si ribalta. Dragan si ribalta, lo so. Ecco. Caro Dragan, questo è tutto per te e Thomas Zdravkovic. Porca miseria, ti dedica Thomas Zdravkovic, vabbè. Caffana je moja sudbina di Thomas Zdravkovic, questa è tutta per Dragan e Nada. Dali si mi velovala, ženo je vina. Da li si mi verovala, da li si praštala, kad sam tebi dolazio, mrtav umoran. Da li si mi verovala, da sam bio sam, da sam bio sam. Ona me je sebi uzela, ona je moja istina. Toma Zdravkovic con Kafana e Moja Sudbina, ovvero la Kafana è il mio destino. Con questo abbiamo detto tutto. Beh, Toma Zdravkovic sì, è un cantante folk famoso soprattutto negli anni 70, diciamo. E appunto questo è il tipo di musica che si sente nelle Kafane, nelle osterie balcaniche. Esatto. Accompagnando appunto le atmosfere fumose e dall'alto tasso alcolico altissimo. Ecco, ma facciamo un passo indietro, facciamo e prima, un passo indietro, ecco, e andiamo a parlare del caffè, del perché caffè, ecco. Se non ci fosse il caffè non ci sarebbe la Kafana in qualche modo. Tu non sei tanto d'accordo, ma in ogni caso sei d'accordo? Sì, vabbè, è una questione linguistica, sì, è dire sempre, però nel senso, nella Kafana si beve, soprattutto si mangia e soprattutto si beve. Il caffè è un optional, il caffè al massimo si beve nelle Kafane che sono aperte anche negli orari mattutini, diciamo. Beh, si beve anche duplice funzione, anche il pomeriggio. Comunque ci sono, sì, Kafane e Kafane. Diciamo che ci sono le Kafane, quelle un po' più da birra, e le Kafane, quelle un po' più da caffè. Esatto, dopo andremo a vedere le varie tipologie, come si suddividono. Infatti, facciamo, insomma, una mappatura delle Kafane. Intanto appunto facciamo questo passo indietro e parliamo del caffè, del consumo del caffè nei Balcani, insomma. Che è una cosa importantissima. Tra l'altro non tutti sanno che è nato proprio a Istanbul un museo dedicato al caffè turco. Ma andiamo a parlare dunque di caffè. È innanzitutto una parola araba. L'etimologia appunto è araba, kahva in origine, e identificava una bevanda prodotta proprio dal succo estratto da alcuni semi, bevanda che veniva consumata come liquido rosso scuro, il quale bevuto provocava forti effetti eccitanti e stimolanti, tanto da essere utilizzato anche come medicinale. Oggi questa parola indica in arabo precisamente il caffè, quindi dal termine kahva si passò poi al termine turco kahve attraverso un progressivo restringimento di significato, parola appunto riportata in italiano con caffè e in serbo croato con kafa, kava o kahva. Ma dunque fino al XIX secolo non era certo quale fosse il luogo di origine della pianta del caffè. Oltre all'Etiopia si ipotizzava ad esempio la Persia e lo Yemen. Pellegrino Artusi, nel suo celebre manuale proprio dedicato al caffè, sostiene che il miglior caffè sia quello di Moka, da cui poi deriva proprio il termine Moka, quello insomma della penisola dello arabica. Yemen, sì, città nello Yemen, e che questo sarebbe appunto l'indizio per individuarne il luogo d'origine. Esistono comunque molte leggende, ad esempio la più conosciuta è quella di un pastore chiamato Kaldi che portava a pascolare le capre in Etiopia. Un giorno queste, incontrando una pianta di caffè, cominciarono a mangiare le bacche e a masticarne le foglie, e quindi arrivata la notte queste caprette, anziché dormire, si misero a vagabondare con energia e vivacità mai espressa fino allora. E quindi, vedendo questa cosa qua, il pastore individuò la ragione appunto nelle bacche di questa pianta, brustolì i semi della pianta mangiati dal suo gregge, poi le macinò e ne fece un'infusione. Interessante, veramente verosimile come leggenda. Sì, può essere, insomma, sembra credibile. Invece un'altra leggenda ha come protagonista il profeta Maometto, il quale, sentendosi male, ebbe un giorno la visione dell'arcangelo Gabriele che gli offriva una pozione nera, nota come la sacra pietra della Mecca, creata da Allah, che gli permise di riprendersi e ritornare in forze. Poi esiste ancora una leggenda che narra di un incendio in Abissinia di piante selvatiche di caffè che diffuse nell'aria il suo fumo per chilometri e chilometri di distanza. Comunque facciamo un excursus un po' storico. Nel XV secolo la conoscenza della bevanda a base di caffè si estese fino a Damasco, al Cairo, per arrivare poi a Istanbul, dove il suo consumo avveniva appunto nei luoghi di incontro. In Silvarum, pubblicata nel 1627, Francesco Bacone fornisce per primo una descrizione di questi locali in cui i turchi siedono a bere caffè, paragonandoli appunto ad alcune taverne europee. Ma per i rapporti commerciali con il vicino Oriente, diciamo che Venezia fu la prima città a far uso di caffè in Italia, forse fin dal XVI secolo addirittura, anche se le prime botteghe di caffè furono aperte soltanto nel 1645. E seppure in Italia l'uso di caffè sia fortemente influenzato da tradizioni locali, quindi legato all'uso di nomi che possono variare di città in città, merita sicuramente una menzione particolare la nomenclatura del caffè in uso a Trieste, che è del tutto differente, vi assicuro, rispetto alle altre parti d'Italia. Dimmi, ti vedo. Sì, no, questa cosa qua di Venezia che dicevi che compare, insomma, per prima volta in Italia il caffè, appunto, essendo un porto, insomma, importante, una città marinara, eccetera, repubblica, anzi. Nel romanzo Q di Luther Blissett, degli attuali Wumming, attenzione compare... perché c'è una citazione citazione che mi viene in mente, perché alla fine del romanzo il protagonista inizia a dedicarsi al commercio e siamo circa a metà del XVI secolo, appunto, come dicevi prima, compare il caffè, che viene fatto assaggiare da un mercante turco al protagonista, che appunto va a Venezia. Sì, adesso ho dei ricordi vaghi perché l'ho letto tanti anni fa, però c'è questo episodio in cui comincia a commerciarsi il caffè anche a Venezia. Ecco, mi è venuta in mente sta cosa. Bene, sì, è noto in effetti che Venezia sia stato appunto il primo luogo ad accogliere il caffè. Non meno noto è il fatto che forse il caffè turco è quello che arriva prima, diciamo, no? del caffè espresso, della moca, del caffè napoletano. Beh, certo, del caffè all'italiano. Non esistevano ancora questi marchingegni, insomma, i pentolini, eccetera, a vapore, insomma, si usavano come ancora oggi si usa nei Balcani, nei paesi medio orientali, il pentolino a forma conica, no? Sì, che serve appunto per far depositare più facilmente la miscela di caffè tritata più finemente, insomma, esatto. Polverizzata proprio, e poi si versa piano piano, come insomma la maggior parte dei nostri ascoltatori sapranno, si versa nelle tazzine e si fa depositare poi il fondo, che infatti un bricchetto chiamato Jezve in turco, Jezva in serbo croato. Dunque, per cui il caffè turco si chiama così anche nei Balcani, anche se alcuni lo chiamano caffè bosniaco, caffè serbo, caffè nostro, insomma, però comunque ci si riferisce si riferisce a quella tipologia di caffè riconosciuta come caffè turco. Si prepara, prendete appunti per chi non lo sapesse, facendo bollire dell'acqua in questa appunto jezva, solitamente di ottone, chiamata anche ibrick. E quando l'acqua bolle, si toglie dal fuoco, si aggiunge il caffè macinato molto molto finemente. A seconda delle varie tradizioni e località possono essere aggiunte anche alcune spezie, come il cardamomo, la cannella, ad esempio. Sì, io farei una cosa: prima di, quando bolle l'acqua, si usa toglierne un pochino da parte in una tazzina, altrimenti quando il caffè si alza, no? Perché poi una volta che metti il caffè lo rimetti sul fuoco, così si alza. Sì. Ecco, se rimane tutta l'acqua rischia di uscire fuori, invece togliendone un po' riesci a toglierlo dal fuoco senza farlo fuori uscire, ecco. Va bene, allora questa è la tua... E un'altra cosa, ti dico di più, ecco, dimmi i segreti perché... del caffè turco, questo in Bosnia soprattutto, si usa mettere il caffè e zucchero senza acqua e mm-hmm. si tostano insieme in maniera che lo zucchero rimane un po' caramellato insieme al caffè, e solo allora si mette l'acqua bollente sopra. Benissimo, quindi questa è il... ho capito. No, beh, ci sono sicuramente molti molti modi di cucinarlo, di bollire questa bevanda. Io insomma ho avuto modo sia in Bosnia che in Serbia di vedere le varie modalità. Comunque chiediamo e ci appelliamo ai nostri ascoltatori per sapere qual è la vostra modalità preferita. Certo è che un buon caffè turco senza rahat locum, quelle gelatine solitamente alla rosa, a me insomma è come, e senza una drina dopo, senza aver fumato una bella sigaretta dopo, ecco, possibilmente dopo, drina. Dobbiamo parlare anche della questione tabacco, che insomma per chi non ha sentito, sta per essere approvata una legge antifumo in Serbia, una vera e propria rivoluzione che proibirà, come è già successo in Italia ormai più di 10 anni fa, proibirà l'utilizzo delle sigarette nei luoghi pubblici. Una cosa abbastanza scioccante e incomprensibile, che lascia sgomenti appunto i ristoratori e i gestori dei locali. grandi, insomma. Cosa andiamo a sentire? Andiamo adesso a sentire l'Epa Brena con Crna Kafa. Questo è un pezzo appunto dedicato proprio al caffè, al caffè nero, e appunto questa è la bella Brena, Crna Kafa. Čega mogu, ali ni podradno, bez papi ljubavi. Joj, kombinacije, evo kulminacije, boli glava, boli glava, joj! Istru kapu večera, ona mi je ručak i večera, na doručak ljubav. Kodrodata, gorka mi je kapa, ali mi život sladak. Istru kapu večera, ona mi je ručak i večera, na doručak ljubav. Kodrodata, gorka mi je kapa. Ami život hlada. Čega mogu, ali ni podrazno, bez kafe i ljubavi. Joj, kombinacije, evo kulminacije, boli glava, joj! Istru kafu večera, ona mi je ručak i večera, za doručak ljubav. Kododata gorka mi je kafa, a mi život sladak. Istru kafu večera, ona mi je ručak i večera, za doručak ljubav. Kododata gorka mi je kafa. Ami život hlada. E questa era l'Epa Brena con Crna Kafa, no, un pezzo degli anni Ottanta, che bello che era. Boh, sì. Boh. Sì, l'Epa Brena, vabbè, sì, insomma, la super mega bionda, cantante folk, appunto, famosissima negli anni 90, negli anni 80, anzi, che appunto ha modernizzato questo genere, insomma, della canzone cosiddetta narodna. Infatti, un precursore del turbo folk in qualche modo assolutamente, sì, anche se è un po' un caso a parte l'Epa Brena. Sì, l'Epa Brena è proprio popolare, diciamo, è proprio un po' la Madonna dei Balcani. Sì, aveva un pubblico forse più addirittura trasversale, insomma, rispetto alle altre cantanti di questo tipo. Benissimo, torniamo a parlare quindi del nostro argomento di stasera, che è appunto la Caffana, le osterie balcaniche. Andiamo a vedere quali sono le varie tipologie, insomma. Innanzitutto, Valentina, qual è il concetto balcanico dell'osteria, insomma, in che cosa si differenzia dalle osterie italiane, insomma, dai luoghi dove si beve appunto il bianchino, eccetera. Mi fai delle domande difficilissime. È difficilissimo spiegare che cos'è una caffana, ed è difficilissimo soprattutto tradurla, questa parola. Per me è un luogo mitologico, nel senso che forse la caffana intesa come caffana come all'inizio degli anni del Novecento, no? All'inizio del secolo, diciamo che forse si è ha avuto il boom questo tipo di luogo di aggregazione, forse non esiste più, forse le cafane di oggi sono alcune delle ricostruzioni per turisti, altre invece dei luoghi un pochino fancy è il, sicuramente il termine che si usa da quelle parti per dire un po' fighette, diciamo, un po' infighettate, un po' impacchettate per renderle comunque fruibili anche ai giovani e non solo più al contadino della Schumadia che va a bersi la birra. Sì, quindi diciamo che ha un'evoluzione, c'è la cafana dei primi del Novecento che assomiglia più, diciamo, a un bistrò, no? Forse, sì, diciamo se parliamo delle grandi città, se parliamo di Belgrado, eccetera, quindi un bistrò dove c'è la musica, dove c'era un genere proprio particolare, quello della canzone starogradska, cioè la musica della città vecchia, insomma, tradotto letteralmente. Certo, la starogradska, oppure anche, insomma, se ci avviciniamo in Bosnia, anche la Sevdalinka, credo. La Sevdalinka, sì, esattamente. Quindi è in pratica una trattoria, un posto dove si mangia e dopo ci si trattiene per un bel po', ascoltando, bevendo, eccetera. Bevendo tanto, fumando altrettanto e tentando anche di cuccare. Chiaramente, ovviamente, possibilmente se sei un figo della Madonna con la cantante. Con la Pevačica, che insomma la Kafanska Pevačica, cioè la cantante da Kafana, diciamo che ha dei connotati già solo nel nome che non fa di essa una donnetta dalla bella voce soltanto, ma anche insomma dalla coscia lunga, dalla scollatura. Certo. Quindi diciamo quindi si parte dai primi del Novecento. Chiaramente anche allora c'era appunto la cafana che è più un bistrò, e poi addentrandoti nelle province c'è la cafana del paese, che è molto più grezza, molto più insomma osteria del paese, posto del ritrovo, dove insomma la scelta anche dei beveraggi e dei cibi è minore. Insomma, non c'è tutto sto intrattenimento e anche la musica è più popolare, folk. Poi dopo, insomma, c'è tutto l'evolversi, c'è poi la cafana socialista, no? Un po' più spartana. Sì, quella con diciamo la tovaglia bianca col bordino blu e insomma la cameriera con le scarpe, come si chiamano? Le Borovo, quelle terribili che non si possono guardare. Esatto, le scarpe anatomiche, le scarpe ergonomiche, non so come si chiamano. Esatto, era una sorta di divisa, cioè c'erano le cameriere in divisa, appunto, con le stoviglie tutte uguali, il ritratto appunto di Tito, eccetera, le cafane real socialista, appunto, a volte erano gli stessi cosiddetti dom jna, cioè le case dell'esercito popolare jugoslavo, che al proprio interno erano appunto dei luoghi ricreativi per i soldati, al proprio interno avevano una cafana, quindi un ristorante, un posto dove si suonava, dove si organizzavano anche dei balli a volte, no? E questi luoghi venivano aperti anche alla cittadinanza, o spesso e volentieri lo erano sempre aperti alla cittadinanza, no? E oggi c'è ancora qualche rimasuglio qua e là, come quello di Novi Sad, no? Lungo Danubio c'è un molto dom carino, là, che esiste ancora, e appunto è una cafana, un posto dove si va a mangiare la carne alla griglia, a bere la birra, eccetera. Quindi ci sono, poi dopo si è, diciamo, evoluta ulteriormente la cafana, no? Negli anni 70, 80, 90, poi ci sono insomma sorte anche delle cafane che sono più dei locali serali e anche più per i giovani da un lato, dall'altro lato negli anni 90 la cafana diventa il luogo più oscuro, no? Di ritrovo dei faccendieri, dei, no, mafiosi, diventa anche un posto pericoloso, no? Può essere un posto pericoloso, sparatori, certo, eccetera, no? E oggi finalmente, come dicevi prima, diventano anche dei luoghi turistici che riprendono un po' questi connotati tradizionali per fare un prodotto più, diciamo, più che segue degli standard internazionali, come posto etnico dove si mangia tradizionale, però è tutto confezionato in maniera un po' più patinata, ecco. Certo, certamente. Io devo fare il mio excursus filologico, cioè sulla parola kafana. Sentiamo. La parola kafana appunto deriva dalla parola turca kahvehane, che è preso dall'arabo appunto e persiano kahve, cioè appunto il caffè, e kane, che significa casa. Ah. Quindi là è proprio la casa del caffè. questo era il mio excursus filologico. Ho finito. No, mi è confuso questo mettere... cane. Ho detto cosa c'entro in cani. Va bene. In realtà è cane. Cioè io, la mia pronuncia in persiano, diciamo che è pari alla tua in finnico. Però. Ecco. Benissimo. Cosa andiamo a sentire adesso? Andiamo a sentirci Shaban Shaulich con un pezzo. Il re della canzone rom. Infatti il pezzo è in romanè. Non riesco assolutamente a pronunciarlo. Penso si intitoli qualcosa come Mamma Maren. Ma non ne sono assolutamente certa. Io non ci provo nemmeno. Andiamo a sentirla. Certo è che è un pezzo molto molto bello. Che dura un pochino. Struggente. È struggente. Lui è Shaban Shaulich. Ascoltatevelo tutto. Iramanghi e corcorò, me sembro ma non c'avò, i fumanghi da ioni, o camanghi e bralparò, iramanghi e corcorò, me sembro ma non c'avò, i fumanghi da ioni. Appunto Shaban Shaulich con Mama Maren, che significa i nostri ascoltatori ci hanno appunto raccontato un po' di questo pezzo. Noi non sappiamo il romanè, ma dice me sem romano ciavo, che significa ya sam rom scodete, cioè io sono un uomo rom, un figlio rom. Sì, un figlio dei rom. Insomma, un figlio di quella, insomma, infatti cultura, in qualche modo. Molto molto bello questo pezzo. Shaban Shaulich è come al solito molto molto profondo. Anche i fiati che c'erano dietro erano spettacolari, non trovi? Sì, povero Shaban, ci ha lasciati ormai 6 anni fa circa. Era morto appunto nel 2008. Non si arricchì mai, malgrado malgrado il grande successo pluridecennale, insomma, non è mai diventato una star, insomma, uno che non sapeva risparmiare. Infatti, gli piaceva regalare, soprattutto a destra manca, macchine, cose ai suoi parenti lontani o parenti inventati, eccetera, insomma, vabbè. Beh, comunque un talento della Cafana. Non abbiamo passato ancora Esma Regepova, che si starebbe, insomma, come nel tema di questa sera, ma avremo tempo sicuramente nelle prossime puntate anche di fare un omaggio alla regina della musica rom, al femminile. Tra l'altro, a proposito di musica da Cafana, non tutti sanno che proprio oggi, cioè proprio il 10 di ottobre, ci ha lasciato, però tanti anni fa, nel 75, Silvana Armenulic, che è una, appunto, delle cantanti un pochino più famose, no? Della musica popolare, ma anche questo l'andremo ad ascoltare in un altro momento, perché purtroppo non abbiamo tutto questo tempo. Allora, adesso passo la parola a Dule, che ci parlerà del codice deontologico della Cafana. Eccoci, cioè di come... Infatti, no, per capire meglio, per entrare nella logica, perché uno dice, vabbè, ma in cosa si differenzia? Una sorta di trattoria dove si suona. Però c'è tutta una serie di comportamenti, del modo di essere e di stare all'interno di una Cafana, no? In rapporto col personale, con i musicanti, con gli altri clienti. Allora, innanzitutto bisogna entrare in una Cafana con una grande sicumera. Si entra in una Cafana come se fossi tu il padrone, no? Mm-hmm. C'è, diciamo, questo atteggiamento qua che spesso si assume. Il rapporto con i camerieri, innanzitutto i camerieri della Cafana non sorridono, cioè non è che sono gentili, che fanno, diciamo, il loro mestiere secondo gli standard come li concepiamo noi. Il cameriere è abbastanza scazzato, viene lì che sembra che ti fa un favore, però bisogna trattare questo dalle tue parti soprattutto. E soprattutto se sei uomo, perché diciamo che se sei donna, un trattamento diverso è sicuramente riservato. Prima c'è un pochino di diffidenza, nel senso che ci fa questa qua? Cioè, ho accompagnata, o se no è una poco di buono, probabilmente. Vabbè, certo, soprattutto se si siede al bancone. In ogni caso, non bisogna, ecco, i camerieri delle Cafane, quelle vere, quelle autentiche, quelle, ecco, bisogna andarci piano, non bisogna pretendere troppo, possono essere anche pericolosi. Come scegliere il posto? Beh, dipende da cosa si vuole fare in quella Cafana, quella sera in cui ci si va. Ci sono varie alternative, cioè se si è dei neofiti, meglio scegliere un posto un po' distante, un po' lontano, ecco. Se invece ci sai fare, ti metti vicino alla musica, così dopo puoi ordinare i brani, perché si usa così, no? Sì, anche se sono musicanti che tu li chiami, gli fai il cenno, no? E loro vengono e ti chiedono che cosa, qual è il brano che vuoi sentire, no? Delle Narodne, delle Starogradske, eccetera. Ovviamente dietro un compenso che viene dato dopo. Questo compenso che viene dato in modo anche abbastanza pittoresco ogni tanto, no? Certo, cioè, no? Un paio di modi per dare il compenso, ecco, vuoi... sputare sulla banconota e appiccicarla in fronte del cantante o del fisarmonicista. Ecco, tu sei andato subito sull'esempio quello più trash, più duro, più crudo. Esatto, ma ce ne negli sono stadi altri. Di ubriachezza molesti si fa anche questo, insomma, un modo un po' punk, cioè di sputtare, appunto, appiccicare. Altrimenti si infila tra le maglie della fisarmonica. Possibilmente negli anni 80, quando il dinaro non valeva niente a causa dell'inflazione, si usavano i marchi, chiaramente, perché quei dinari che infilavi, cioè, dopo qualche giorno non valevano più niente, quindi si usavano i marchi. O altrimenti, per i più arditi, si usa infilare, utilizzando due dita, la banconota nel décolleté della cantante. Ecco, questo è un altro metodo di lasciare rido perché voi non l'avete visto, ma io ho visto mimare Dusko che faceva proprio il gesto di infilare nel décolleté. È stato molto divertente. E appunto, quindi il rapporto con la musica è questo. Poi chiaramente nel momento di pagare si usa tirare fuori il portafoglio come la pistola nei film western, no? Chi lo tira fuori prima per pagare, di solito cifre salate, perché il tavolo deve essere pieno di bottiglie e bicchieri quando si abbandona il campo, altrimenti cosa ci sei venuto a fare in una caffana? No, scusa, uno che entra in una caffana, sbirro, uno che è venuto lì per qualche secondo fine, se no, cioè se non lasci tanti cadaveri dietro. Se entri in una caffana e ordini un succo di frutta, insomma, sei... Ma ti buttano fuori, ti dicono vattene via. Soprattutto se sei un uomo, perché se sei una donna, comunque anche lì è concesso il succo di frutta. Se sei un uomo, peder. O sei frocio o stai male, cioè qualche problema sicuramente. Esatto, poi ci sono, vabbè, le altre cose che riguardano il codice deontologico. Nella seconda parte, terza o quarta della serata, è difficile codificare. Lì, diciamo, sono degli stadi che cominciano a essere difficili anche da descrivere, perché appunto si parla di stati allucinatori, di comportamenti più diciamo o meno che animaleschi. Soprattutto è difficile da descrivere quella fase in cui un uomo aborda una donna in una cafana. Quello è proprio, diciamo, l'ultimo stadio dell'ubriachezza molesta. Sì, non vorrei neanche, esatto, comunque non la sento. Non ce la sentiamo per il momento, insomma, lasciamo passare un po' di tempo. Sicuramente ci impegniamo a pubblicare nella nostra rubrica proprio sul sito di MyRadio, www.my-radio.it, sulla nostra rubrica I Love You, il codice deontologico della cafana, quindi cosa fare, sì, e cosa non fare. Io gli atteggiamenti. Anche, sì, ho lanciato un appello sul nostro gruppo Facebook, vediamo, non ci sono ancora contributi, magari entro la fine della trasmissione qualcuno vorrà integrare, insomma, quello che abbiamo detto finora. Adesso cosa andiamo a sentire? Andiamo a sentire un altro grande della cafana, che si chiama Svonko Bogdan, scusatemi, Koteima Taitenema. Questo è un grande classico, no, della cafana, è uno di quei pezzi che comunque in una serata ti fa rompere i bicchieri, ecco, ti fa rompere i bicchieri. Un'altra usanza, insomma, quando si raggiunge il livello giusto come si dice, di euforia, di, ma più che di euforia, insomma, l'apice, diciamo, proprio l'apice della il pathos, esatto. Allora, alla fine della canzone, pam, si inizia a rompere i bicchieri per terra, e poi, ecco, se vogliamo esagerare, magari ci si può anche tagliare le mani, spaccarsi i bicchieri in testa. Ecco, quello, ecco, scene da, appunto, film di Scoppia Ciperia, insomma, quello non ho mai visto Zingari Felici. Esatto, andiamo a sentire Svonko Bogdan, buon ascolto, torniamo tra poco a parlare delle caffane. Senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer, jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Ko te ima, taj te nema, žive blizu, a daleko. Kao kamen ne mogu se maći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći. Ko te njima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi. A ti o tom pojma ne. Dotaknu se linije života, dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju, il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju. Ko te njima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi. A ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema. Zvonko, ce la posso fare, Zvonko Bogdan. Sì, litighi con le consonanti. Sì, stasera. Ho dei problemi con le consonanti, soprattutto quando ci sono il gruppo PR. Sì, GD. GD. Sì, se c'è qualche come si chiama quello logopedista? Che ti aiuta? Se c'è qualche logopedista, ecco, all'ascolto, mi venga in aiuto, perché ho dei problemi molto molto molto seri. E dunque torniamo a parlare di Cafan. Tra l'altro questo era, come giustamente diceva Dusko, a microfoni spenti, sicuramente il re della starogradska, cioè un genere che si differenzia, diciamo, un pochino dalla nard musica. Beh, si differenzia notevolmente, cioè direi che è proprio tutta un'altra cosa, anche gli strumenti, insomma, non predomina più la fisarmonica, abbiamo le tamburizze che sono in una specie di mandolino, insomma, sono di un tipo dei mandolini. E ha delle influenze diverse che prendono un po' dall'Austria, un po' dal Mediterraneo, e c'è molto meno melos orientale. Sicuramente. E il genere della starogradska, diciamo, della starogradska musica, diciamo che si è diffuso molto di più in Serbia rispetto che in Bosnia o in Croazia. E forse il cuore della starogradska è proprio Skadarlija, questo centro di Belgrado. La storia di Skadarlija inizia nella metà del XIX secolo, quando alcune baracche abitate da zingari furono abbattute e sostituite da bassi edifici in mattoni, cui andarono a stabilirsi alcuni artigiani, cuochi e impiegati. Poi fino al 1872 la zona era conosciuta come quartiere zigano, ma in quell'anno prese il nome della città albanese di Skutari, appunto in serbo Skadar, che nel Medioevo era parte dell'impero serbo. Il suo carattere bohemian iniziò a sorgere poi proprio all'inizio del Novecento, quando fu demolito il ristorante denominato Dardanelli. Il Dardanelli sorgeva nell'attuale Piazza della Repubblica, quella con il cavallo per intenderci, Targ Repubblica, a pochissimi metri da Scadarli, ed era meta di scrittori, attori e intellettuali. Quindi la sua scomparsa determinò l'esodo degli artisti, suoi ospiti nelle numerose taverne appunto e nei caffè di Scadarlia. Poi col passare degli anni gran parte degli intellettuali e degli artisti, non solo serbi ma anche internazionali, andarono proprio lì a Scadarlia per riunirsi e discutere, o solo per passare delle ore in tranquillità a bere, discutere di massimi sistemi, come solo i bohemien veri sanno fare. Dunque, quindi Scadarlia appunto è conosciuta un po' come la Montmartre di Parigi, insomma, per il suo aspetto e per l'atmosfera calda e accogliente. Il più famoso ristorante o cafana di Scadarlia è il Trisceshira, Tre Cappelli, ma ci sono altre cafane note come Imadana oppure Zlatan Bokal. Zlatan Bokal è la prima cafana per eccellenza in cui io sono entrata. Questo è proprio il mio primo ricordo della cafana, Zlatan Bokal. Oppure Dva Jelena, comunque qui è possibile sicuramente gustare dei piatti molto buoni, tipici della cucina serba, bere caffè, birra, liquori nazionali, quindi la classica rakia, ma è anche possibile associare ricette più internazionali sicuramente, perché come dicevamo prima, oggi è diventato un po' la trappola per i turisti. Quasi ogni locale la sera sicuramente animato da musica dal vivo, il repertorio più gettonato quello che dicevamo prima, legato alla musica tradizionale. E cosa si mangia nelle cafane? La sarma. La sarma? E poi? Si mangia la sarma, si mangiano sicuramente i peperoni ripieni, si mangiano le zuppe, si mangia rostil anche. Ovviamente quello è scontato, insomma, senza rostil. Senza rostil non c'è tipo appunto i fagioli al forno con la pancetta, i pezzetti di salsiccia e credo anche qualche verdura. Poi cos'altro? Ma anche tipo il fegato con le cipolle, piuttosto che la moussaka, piuttosto tanta roba. E ci impegniamo a fare una trasmissione interamente culinaria, quindi tenetevi forte, infatti non spariamo queste cartucce. E diciamo che comunque la cosa più importante della strada è la casa dello scrittore e pittore serbo Đura Jakšić, di cui appunto c'è un importante monumento, una casa che fu restaurata nel 1968 e oggi un centro di ritrovo per artisti e spazio per eventi culturali. E i turisti che vogliono alloggiare a Scadarlia trovano appunto un hotel che si chiama Le Petit Piaf, edificato appunto in una delle antiche dimore della strada. Quindi questa, insomma, se andate a visitare Belgrado, diciamo che Scadarlia è sicuramente uno dei luoghi da visitare. Adesso andrei ad ascoltarmi un'altra delle regine della narodna musica, lei è Olivera Vučo con Niška Banja. Ni cigani mera Questa era la bellissima e bravissima Olivera Vucio Catarina con Nishka Bagna, proprio una canzone dedicata alle terme di Nish. Bellissimo questo pezzo. Dunque, non si può parlare di Cafana senza parlare di sigarette. Questo binomio è assolutamente imprescindibile, perché in ogni Cafana che si rispetti, per entrare, insomma, c'è bisogno di un coltello per tagliare una nebbia di sigaretta. E poi, insomma, arrivato a casa, devi un coltello per grattare via il fumo, cioè il catrame dei vestiti. Ecco, sempre il coltello ci vuole, insomma. O una lavatrice molto molto capiente. Ma stiamo riconfermando la visione caricaturale dei Balcani, insomma, quella che è stata appiccicata. Beh, un po' lo stiamo facendo questa sera. Ma chi se ne frega? Cioè, diciamo che ogni stereotipo che si rispetti una base di verità ce l'ha. Per cui, ahimè, insomma, questa è la puntata dedicata agli stereotipi, quindi non ce ne frega niente. Dunque, appunto, cosa hai da dirci sul fumo di sigaretta, caro il mio censore? È un casino, perché sta per essere approvata la nuova legge antifumo in Serbia. Era un problema già in Italia questa cosa qua. In realtà poi gli italiani hanno piegato la testa docilmente e non è successo niente. Sembrava che dovesse scoppiare una rivoluzione, anche qua invece non è successo nulla. Può darsi che succeda la stessa cosa anche in Serbia, che dici? Beh, lo trovo abbastanza incredibile. Sì, perché ma tutto può essere. Per chi conosce, insomma, i locali, esatto, in Serbia, fumano tantissimo, fumano come i turchi, come si usa dire. No, più dei turchi, secondo me. Esatto, le sigarette costano poco e poi c'è questo rituale di sedersi davanti al caffè e fumare almeno 3 sigarette, insomma. Minimo. Una prima, mentre si raffredda. Sì, una durante. Una durante, una dopo. E poi dopo dipende di quanto ti fermi. Chiaro. Esatto. Per non parlare delle uscite serali. Quindi anche le Cafane sono sempre invase da questa coltre di fumo. Una cosa che personalmente, ecco, lo dico, anche la mia personale, non so, poi là dove si mangia non può essere proprio di cattivo gusto. Cioè, ma questa, diciamo, che è un po' la tua sì, percezione. Dicendo, la mia percezione non è, adesso vabbè, sto dicendo la mia, però non è una percezione, è una questione chimico-fisica, cioè quella che il fumo appunto va a inquinare i sapori, a modificarli e appunto non ti fa gustare le cose come si deve. Se parliamo poi del vino, non ne parliamo. Va bene, dite la vostra, mi raccomando, sul nostro gruppo Facebook Balkan Rock et My Radio, perché vogliamo saperne di più, vogliamo sapere da voi in che modo e se sarà possibile applicare questa legge, perché insomma io la vedo davvero complicata. I gestori dei locali e le varie associazioni degli esercenti in Serbia sono sul piede, ma non sono più che sul piede di guerra, sembrano semplicemente amareggiati e annichiliti, minacciano di chiudere, di cambiare mestiere, che sarà un disastro economico, che i locali si svuoteranno, dando, diciamo, un quadro apocalittico di quello che sta per succedere. Quindi ci sono diversi articoli che stanno affollando la stampa serba in questi 2 giorni, che parlano di questo argomento, su che cosa succederà. Qualcuno tra i vari commentatori, insomma, di queste notizie punta il dito, insomma, sull'imperialismo europeo che vuole assoggettarli alle loro regole fredde e assurde, imponendo appunto questa nuova normativa e svuotando di significato appunto, tra l'altro, anche il concetto della Cafana. Infatti leggo qua, dice: senza il fumo non c'è la Cafana, dice un signore, sto citando un articolo di B92, di Radio B92, dove c'è una serie di interviste appunto ai frequentatori e anche agli esercenti, e c'è un signore che ha un'intervista che dice: non c'è Cafana senza fumo. L'hanno intervistato nella Cafana, questo ci tengo a dire, nella Cafana Herzegnovi, dove tra l'altro sono andato a mangiare una volta lontano, 99, mentre si beve il suo caffè mattutino e sfoglia il giornale. e dice insomma qua ci mancava solo l'inquisizione antifumo, già mia moglie mi ha vietato di fumare in casa perché ora c'è il nipote che viene lì e lo curiamo, questa è la mia unica oasi dove posso sedermi, fumarmi la mia sigaretta, bermi il mio bicchierino in poverino pace. Io lo capisco molto. Ma tanta anch'io... solidarietà per il signor lo chiameremo Pino, sì Pinco Palino, sì io lo capisco, però guardando globalmente, cioè i locali in Serbia sono dei luoghi che vanno oltre il masochismo, cioè sono dei luoghi dove veramente uno rischia di star male senza bere, senza fumare niente. Ma che esagerato. Soltanto... ma no, vabbè, ci sono anche tra i commenti anche quelli che dicono ma era ora, insomma non ne potevamo più, cioè, c'è gente che dice io non esco più perché non riesco a stare in giro, cioè mi sento male. Ma che fighetti. Comunque io voglio fare una previsione. La mia previsione è la seguente, poi vedremo se si realizzerà. Sentiamo. Insomma, qua lo dico e qua lo nego, tanto è tutto registrato. Secondo me accadrà la seguente cosa: coloro i quali avranno i soldi per permettersi una buona, un buon impianto di erezione a norma di legge, probabilmente riusciranno a tenere aperti comunque i battenti e a fare tranquillamente la loro sala fumatori. E coloro i quali invece non avranno i soldi per rendere a norma di legge, anche perché comunque questa è sicuramente una delle leggi pro Unione Europea, no? Cioè, in qualche modo per avvicinarsi all'ingresso dell'Unione Europea, coloro non appunto i quali non avranno i soldi per adattarsi alla legislazione, purtroppo in effetti saranno sicuramente molto svantaggiati. Ma guarda, in Italia non è che tutta questa gente ha fatto adattamenti, ha speso soldi, la gente semplicemente prende, esce, va fuori e fuma. Beh, ma punto. In Italia non è propriamente la stessa cosa. Comunque, allora, in Slovenia è passata questa legge, gli sloveni si sono organizzati. Gli sloveni sono fighetti. Ma vabbè, fighetti non fighetti, già da qualche anno è in vigore questa legge, quindi anche d'inverno i locali notturni si sono attrezzati con le coperte. Quindi ci sono dei dehors fuori, spesso e volentieri, no, riscaldati con i cosiddetti funghi, no, a gas, e poi vengono distribuiti, appunto, distribuite delle coperte di pile, di quello che è, e si fuma fuori, insomma, che problema c'è? Si sta all'aria aperta, si è vestiti, c'è la coperta, che problema c'è, insomma, perché creare delle camere a gas? Guarda, non ti voglio rispondere perché sennò qua finiamo a tirarci i microfoni fra fumatori e non fumatori. Comunque, volevo dire che locali del genere mi sembra esistano anche in Italia. Appunto a Torino mi pare che già un paio ci siano con le coperte e i funghi fuori. Sì, per... insomma in centro a Torino ce ne sono un po' di posti così. Poi anche a Belgrado ne abbiamo già visti di posti, insomma, in centro. Però diciamo è un problema, sì, per la Cafana, quella vera, quella autentica, quella in provincia, no? Nei paesi, però penso che lì non ci saranno neanche tutti questi controlli che riusciranno, diciamo, a imporre questa legge così a tappeto. Sicuramente ci rimarranno delle zone grigie, però bisogna vedere, perché comunque sembrano abbastanza agguerriti a farla rispettare alla lettera. Poi insomma vedremo. Benissimo, sì. Ci sono altri commenti degli ascoltatori che vuoi riportarci, oppure possiamo passare al prossimo pezzo? Intanto passiamo al prossimo pezzo, così riusciamo a comunicare con i nostri ascoltatori che ci stanno mandando appunto dei feedback su quello che per loro è il codice deontologico della Cafana. Noi intanto andiamo ad ascoltarci lui, il novosadese Giorgio Balashevich. Ah beh, non poteva, sì, questo è per le Cafane un po' più moderne, civili, un po' più moderate, tranquille, le Cafane voivodesi, che non sono le Cafane serbe, insomma si spaccano meno bicchieri, non che non si faccia mai, però diciamo sono un po' più tranquilli. Benissimo, giusto? Sì, sicuramente, ecco. Allora questa è Devoj Kasačardas Unogama. Giorgio Balašević. Ancora queste consonanti. Sentiamo Giorgio Balašević. Nek što smo bili plaćeni, al dobro sad. Nosio sam šal od kašmira i prsluk protkan tajnama. Baš od takvih su je čuvale tetke sa ladnim trajnama, ko srna me gledala, žalostnom pesmom sluđena, čije si pile birgavo, što nisi meni suđena. Pusti ko se pune polena, ajde, pašuj nad balarogama, oplar, digni suknju iznad kolena, znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama. Traži bolje partije. Premala je moja tambura da te od kiše sakrije. Rekoh joj, ja sam samo tu da vreme brže proleti. Ja nosim čizme skitaljke, mene teško voleti. Badava. Hej, pusti ko se pune polena, ajde, bašuj nad babarogama, opla, digni suknju iznad kolena, znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama. Hej, doleti mala senice, tu na moje zlatne čivije, vatra šara tvoje senice, razbij nešto, zaigraj ludo divije. Era appunto Giorgio Balashevic con Devojka Sačarda Šunogama, un pezzo sicuramente molto molto allegro, un pezzo da cafana moderna, un pezzo da cafana un po' infighettata, un pezzo da cafana della Vojvodina. Da dove che non vuol dire infighettata, semplicemente beh, non della cafana di inizio Novecento, cioè della cafana un po' moderna sicuramente. Della cafana degli anni 80, degli anni 90. Beh, no, degli anni 90. Sicuramente sì, nelle cafane appunto di questo tipo si ascolta ormai non solo la musica, si possono sentire anche cantanti pop, tipo appunto Giorgio Balashevic, o non so, anche Bielodugme, per dire. Assolutamente, assolutamente. I Bielodugme sono un pezzo da cafana. Sono, sì, sicuramente. Pezzi sono proprio, sono da proprio cafana, perché sono nazional popolari, sono quelli che richiamano, insomma, che uniscono un po' tutti. Per cui quando si ubriachi, come qua, si può cantare, non lo so, anche gli 883. Vasco Rossi ancora peggio. No, beh, insomma, peggio di 83, sinceramente. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti. Ecco, andiamo avanti. Parliamo, vabbè, ancora di questo discorso di cafane. Cafane e i giovani, vabbè, sarebbe tutto un capitolo a parte. Però io volevo dire una cosa ben specifica, appunto, risalente, una questione risalente agli anni 90, quando appunto, come dicevo prima, le cafane erano diventati dei luoghi anche pericolosi. Invece i giovani avevano anche loro dei posti di ritrovo, soprattutto ragazzi di strada, insomma, per citare i Corvi, o i giovani alternativi si riunivano di fronte ai drugstore cosiddetti, insomma, dei piccoli discount aperti anche fino alla sera, che vendevano appunto gli alcolici. Quindi chi non aveva soldi per andare in giro per i locali, o comunque i locali non erano accessibili per tutta una serie di motivi, si andava a bere davanti al drugstore. quindi era proprio un'usanza, insomma, un aspetto sottoculturale dei giovani che non si conformavano, insomma, che non erano da discoteche trendy, che insomma stavano cominciando ad essere in voga in quegli anni, o da caffane dove si riuniva la gente di un certo tipo, insomma. Quindi si bivaccava, si ciondolava di fronte ai drugstore bevendo la birra a basso costo, chiacchierando, eccetera, magari anche con una chitarra. Questo, diciamo, era uno degli aspetti di quegli anni della crisi, insomma, economica. Ti vedo con l'occhietto un po' lucido, perché poi tu te lo ricordi questo periodo. Beh, sì, andavo a bere anch'io davanti ai drugstore di Herzegovina. Adesso un po' sono scomparsi, cioè in Serbia ce ne sono ancora, però diciamo sono diminuiti rispetto a prima, proprio una cosa molto molto diffusa. Quindi questa era una specie di cafana all'aperto, chiaramente soltanto per un certo tipo di utenza che doveva accontentarsi di questo contesto. Infatti. Bene, ma adesso passiamo appunto all'ultima parte di Balkan Rock. Vediamo un po' di notizie flash. Vediamo un po' di notizie flash. Abbiamo deciso, vi informiamo del nuovo format radiofonico di Balkan Rock. Ci dedichiamo appunto un'oretta al tema centrale, che in questo caso sono stati la caffa e le cafane, cioè il caffè e le cafane. Per finire poi vi diamo un paio di notizie flash proprio dalla Jugosfera e dal mondo dei Balcani. Ma prima di passare alle notizie flash andrei ad ascoltare un altro pezzo in tema, che si intitola appunto Janoča spijem, ovvero io questa sera bevo. Sottotitolato. Pensavo che avresti messo i Directory, visto che si parlava dei drugstore e della birra a basso costo. E invece no, i Directory andiamo ad ascoltarceli dopo. Adesso andiamo ad ascoltarci Vlado Kalenberg con Janoča spijem. Yeah. Schellenberg, Janocho Spiem, questa sera io bevo. È grandissimo, Vlado, guarda, io lo adoro. Io lo adoro soprattutto per quel pezzo meraviglioso che questa sera non posso farvi ascoltare, perché sennò stiamo qua tutta la notte a mettervi tutti i pezzi che ci piacciono un sacco, che è Vino na Usnama, cioè un pezzo sicuramente molto molto più famoso di questo di Vlado Kalenberg. Tra l'altro Vlado Kalenberg è del 53, è un cantante croato, ha fondato un gruppo pop che si chiama Srebrna Krila, oggi non ce la posso fare, nel 78, nel quale appunto è sia cantante che bassista. Ha partecipato a Eurovision in duetto con Isolda Baruggia nell'84, hanno cantato insieme una canzone dal titolo Ciao Amore. Però sono arrivati soltanto 18esimi, poverini, poverini. Comunque, dopo essere appunto aver lasciato il gruppo, ha avuto una carriera da solista, ma è stato anche membro del gruppo Cetriassa, nel quale hanno cantato, c'erano comunque anche come membri del gruppo Juri Zapagen degli Aerodrome degli Asra, Rajko Dujmić dei Novi Fossili e Alen Islamović dei Bielodume. Diciamo che sicuramente i suoi pezzi più conosciuti sono, come diciamo, Vino na Usnama e poi la meravigliosa Evo Noci Evo Ludila. Questa è un pezzo che sicuramente vi metteremo, anzi vi metterò quando Dusko sarà distratto, perché mi guarda con fare minaccioso. Insomma, vabbè, ci fai sentire le notizie? Cos'è che Benissimo. Hai selezionato? Ho selezionato dritto dal sito dell'ANSA una notizia che arriva da Podgorica, per cui il 61% dei montenegrini sarebbe favorevole all'ingresso del loro paese nell'Unione Europea, rispetto al 25% di contrari e a un 13% di indecisi. Il dato è emerso da un sondaggio del Centro per la Democrazia e i Diritti Umani. E nella stessa inchiesta condotta nella seconda metà di settembre su un campione di 1000 persone, a dirsi favorevole all'adesione del Montenegro alla NATO invece è stato solo il 35% degli intervistati, mentre il 45% si è pronunciato contro, con un 20% di cittadini ancora indecisi. I maggiori sostenitori dell'adesione del Montenegro all'Alleanza Atlantica sono i rappresentanti della comunità albanese e bosniaca, mentre la minoranza serba è quella più critica. Questo è sicuramente abbastanza ovvio. Per gli albanesi non mi sorprendo, insomma, però i bosniaci ecco un po' meno, insomma, che siano così. I bosniaci sono, forse i bosniaci in Montenegro è ancora una categoria, no, a parte. E invece andiamo a Sarajevo, dove è comparsa una croce in cemento e metallo alta 10 metri eretta nella notte tra il sabato e la domenica, un sabato e una domenica di fine settembre, sulla collina di Zlatišt che sovrasta Sarajevo, una delle tante alture da dove l'artiglieria serba bombardava la città assediata per 3 anni e mezzo. Appunto, la comparsa di questa croce ha sollevato nella capitale bosniaca una valanga di proteste proprio a poche settimane dalle elezioni. La croce è stata eretta abusivamente in ricordo degli assedianti serbi che persero la vita ed è vista come una provocazione che acuisce le tensioni durante l'attuale campagna elettorale per le politiche del 12 ottobre prossimo, quindi insomma fra 2 giorni, ed è stata definita dalla stampa sale sulle ferite e addirittura oltraggio. La notte scorsa alcuni giovani hanno tentato di abbatterla e durante appunto i 43 mesi di assedio e bombardamenti incessanti dell'artiglieria serba provocarono oltre 11.000 morti, di cui 1.500 bambini e 50.000 feriti. Per crimini di guerra contro gli abitanti di Sarajevo, il Tribunale Penale Internazionale dell'Aia ha condannato all'ergastolo Stanislav Galic, il comandante delle truppe serbe che assediavano la città, e il suo successore Dragomir Milošević a 29 anni di reclusione. Benissimo, allora prima di passare alla prossima notizia, che arriva invece da Zagabria, stiamo facendo un po' un salto in tutte le ex repubbliche, andiamo ad ascoltarci lui Lui si chiama Rambo, si Rambo chiama Rambo Amadeus. Con il pezzo Vanze Maies Extraterrestre. Questa è una sorta di caricatura, di parodia dei cantanti folk. Insomma, parla di un ubriaco che appunto torna dalla cafana e incontra un extraterrestre con cui si confida delle sue sventure amorose. Vanze Maies. Jedne noci noci pijan selom htjedoh proći, ali susreo sam vanzemaljca. I čim sam ga ugledao, odmah me je prepoznao, a kad me je prepoznao, tada mi je objasnio. Zemljane i jarane, zemljane i jarane, zemljane i jarane, zemljane i jarane. Zašto da se ustručavam, ide mirno ja da spavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbog iste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbog žene druge. Zemljane, jarane, poznaniće sa vaša čije. Grandissimo Rambo Amadeus, terrestre amico mio. Yaran è un modo bosniaco per dire fratello, amico. Esatto. Dice terrestre amico mio, non aver paura di me, soffriamo per la stessa donna. È fantastico questo pezzo ed è inspiegabile, peraltro, per cui insomma lasciamo perdere, andiamo oltre. Notizia. Però vogliamo portarvi un giorno, sicuramente lo faremo, una bella intervista con Rambo Amadeus, perché è sicuramente uno dei più grandi artisti in questo momento sulla scena ex jugoslava. Quindi andiamo avanti con le notizie. Cosa hai da raccontarci? Ci porti in Croazia? Sì, in Croazia il relitto di un bombardiere monomotore di produzione tedesca, modello Junker U-87, meglio conosciuto durante la Seconda Guerra Mondiale come Stuka, abbreviazione di aereo da combattimento in picchiata, che probabilmente fu parte della Regia Aeronautica Italiana, è stato ritrovato sul fondo marino a largo della costa adriatica croata. quindi un relitto della seconda guerra mondiale, questi Stuka qua che si vedevano nei film sulla resistenza dei partigiani. La scoperta, secondo gli esperti di archeologia marina della sovrintendenza per i beni culturali della Croazia, è a dir poco sensazionale, dato l'ottimo stato di conservazione dell'aereo, praticamente intatto. Infatti, secondo la stampa croata, al mondo dei circa 6.500 Stuka costruiti tra il 1936 e il 1945 per la Luftwaffe, appunto, e gli alleati della Germania, ve ne sarebbero solo altri due esemplari conservati così bene, esposti nei musei di Londra e Chicago, mentre altri 5 o 6 sono preservati solo parzialmente. Ecco, questa curiosità, ecco, che sul fondo del mare si ritrovano queste cose, ma a volte si ritrovano persino dei pezzi di galleoni, magari dei secoli addietro, conservati piuttosto bene, appunto perché, non essendoci l'aria, vengono ricoperti con dei fanghi o cose di questo tipo, quindi in qualche modo si conservano. Quindi vabbè, poi ci sono i vari dettagli sullo stato di conservazione, manca solo un piccolo pezzo esterno alla cabina, ma il resto è tutto al suo posto, insomma, ci sono varie osservazioni, eccetera eccetera. Quindi questo per quanto riguarda questo reperto archeologico. Benissimo, invece per quanto riguarda le elezioni in Bosnia, appunto, di cui stavamo accennando poco fa, vi invitiamo a seguire Is Journal. Ci sono degli articoli molto molto interessanti, uno di Alfredo Sasso, e sicuramente è una testata che verrà aggiornata continuamente in queste ore, e seguiremo sicuramente attraverso di loro quelle che sono le elezioni in Bosnia Erzegovina. Quindi www.isjournal.net. Andiamo a ascoltarci un altro brano. Loro sono i Direttori con Volimo Pivo. Fuck. propala. Ima ti na telu kamene ob brego, ma jebem li mu krevu. Jesa mi je propala. Ima ti na telu kamene ob brego, ma jebem li mu krevu. Jesa mi je propala. Ima ti na telu kamene ob brego, jebem li mu krevu. Volimo pivo a pivo volinas, noi vogliamo la birra e la birra, cioè noi amiamo la birra e la birra ama noi, questo era il pezzo dei Directory. Sì, e poi elenca le varie malattie provocate dall'alcolismo duro, insomma il gruppo Oi Punk belgradese Directory da un album del 1995 mi pare. E abbiamo fatto un bel mischione stasera da Shaban Bajramović con le canzoni da Cafana, abbiamo concluso con lui, esatto, con noi punk. Quindi siamo giunti al termine di questa puntata di Balkan Rock dedicata alle caffane e al caffè, come si consuma insomma nei Balcani. Ci risentiamo venerdì prossimo sempre alle 21, dalle 21 alle 22:30 tutti i venerdì. Vi annunciamo già che la prossima settimana abbiamo un ospite importante, un ospite che abbiamo già avuto appunto ai nostri microfoni. Lui è Eric Gubetti, uno storico della Jugoslavia ma anche un DJ e soprattutto un grande conoscitore di Turbo Folk. Quindi il tema della serata sarà Turbo Folk, sarà Turbo Folk in modo ovviamente un po' scientifico, un po' invece assolutamente non serioso, e insomma sviscereremo questo tema dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista sociale e dal punto di vista ironico, no? Perché si porta dietro tutta una serie di connotati ironici. Benissimo. Allora vi lasciamo con un evergreen, anzi l'evergreen degli evergreen. Loro sono i Bielodugme con Ružić Sibila e noi vi auguriamo un buon venerdì sera a tutti. Au revoir. Ružić Sibila, Bielodugme.